Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi ricordo che trascorsi quei giorni come in un sogno. Avevo una pancia enorme e mi guardavo intorno senza avere in realtà coscienza di cosa mi stesse accadendo. In più, quasi come se avesse capito tutto e volesse farmi un dispetto, questo bambino proprio non ne voleva sapere di nascere. I giorni passavano, passavano e niente, non accadeva nulla. Il ginecologo che mi aveva in cura mi faceva continui controlli, i risultati erano sempre quelli, era tutto a posto, ma poi non succedeva nulla. Mi chiamo Cristiana, ho 45 anni ma non li dimostro, ho 4 figlie e abito in campagna nella Maremma toscana, a Ribolla in provincia di Grosseto, nel comune di Roccastrada, dove lavoro al distretto sociosanitario come infermiera. Tutte le volte in cui arrivano dei racconti a Voi siete qui, @radio24.it, in cui si parla di un parto, si parla di una nascita, ne sono arrivati e credo ne abbiamo già anche raccontati alcuni, di padri che raccontano della nascita del figlio, di madri, nella fattispecie esattamente come è successo per Cristiana. Io mi sento un po' in imbarazzo per due motivi: primo, perché sono un maschio e in quanto maschio conosco veramente poco del parto; secondo, perché non ho figli e in quanto non avendo figli ne conosco ancora meno. Però quando ho letto racconto di Cristiana, e è piaciuto a me, è piaciuto anche agli altri, abbiamo voluto farne una puntata, mi sono domandato che cosa ho in comune con Cristiana, che racconta di un parto, e con tutte le persone che hanno avuto questa esperienza. L'unica cosa in comune che ho con loro e con tutti gli altri è che sono nato. Cioè, sono nato da un parto. E quindi ho deciso di provare a raccontare quella cosa, cioè il momento in cui ciascuno di noi è nato. Cioè, che cosa ci ricordiamo di quando siamo nati? Non ci ricordiamo niente, ovviamente, perché la memoria arriva, credo il primo ricordo sia attorno ai 3-4 o forse 5 anni. Però, di fatto, quello che è uno dei momenti più importanti della nostra vita ci è raccontato talmente tante volte che è come se ce lo ricordassimo, no? Io mi ricordo che appunto era il 24 di luglio, faceva un gran caldo, che quando sono nato l'infermiera ha detto una cosa a mia nonna che non sto a ripetervi perché mi imbarazza, tant'è, però è come se fossi stato, cioè ero là, però è come se me lo ricordassi live, dal vivo. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui, ma anche la mail Voi Siete Qui @radio24.it. che cosa ricordate, o meglio che cosa vi hanno raccontato, o cosa vi ricordate dei racconti del giorno della vostra nascita, perché qualcosa di particolare il giorno in cui si è nati è successa sempre. Come mi scrive Tatiana: domenica 29 ottobre mio padre mi ha sempre detto che si ricordava quel giorno perché la Lazio aveva battuto la Juventus 4-0. Scopro dopo un bel po' di anni che invece era solo un Vicenza battuto per 2-1. Marzia: io, se chiedo a mia mamma, le risposte è sempre un po' vaga. Comunque era un giovedì 25 aprile e con la mia nascita ho rovinato i festeggiamenti della festa della liberazione. Questa potrebbe essere la storia di Margherita Ina, vista la famiglia di comunisti da cui arriva Margherita. Susanna: Pavia, 2 febbraio 1956, ore 5 del mattino. Decido di nascere con 15 gradi sotto zero e un metro di neve. Mio papà, da un paesino della provincia, ha raggiunto in Vespa il policlinico tra due muri di neve. Questo è quello che mi è sempre stato raccontato, aggiungendo che ho già da quel momento iniziato a rendere tutto più difficile. Poi ce n'è un'altra. Simona, eccola qua. Nata il 19 dicembre del 74, mio padre verso mattina iniziò ad avere le doglie. Scusatemi, mia madre verso la mattina iniziò ad avere le doglie. Così andò all'ospedale insieme a mio padre e mia nonna. Rimase però solo la nonna. Questo è un altro tratto comune, davvero, che anche in una lettera che mi è arrivata, che vi leggo più tardi, è che è veramente una roba da donne e gli uomini. Sì, vabbè, stai fuori. Erano le 6:20 di un freddo giorno d'inverno, poco prima di Natale. Pesavo 2,6 kg e avevo il naso storto, scrive Simona, perché dentro la pancia lo tenevo appoggiato al pugno. Ma dissero che sarebbe tornato normale massaggiandolo con l'olio. 349-238-6666, quello che vi ricordate del giorno della vostra nascita. La storia di Cristiana invece ricorda quello che è successo il giorno e pochi giorni prima, il giorno del suo primo parto. Era il 3 novembre ed ero ricoverata all'ospedale di Cecina, provincia di Livorno. Quell'edificio oggi non esiste più, è stato demolito e poi ricostruito da un'altra parte. Ma all'epoca era proprio lì, nel mezzo del paese, dietro il comune e vicino alle scuole elementari che avevo frequentato qualche anno prima. Non tanti anni prima, a dire la verità. A quell'epoca avevo solo 21 anni ed ero in ospedale. Non ero malata, per fortuna, e nemmeno mi dovevano operare. Dovevo solo partorire. La storia è presto detta. Ero andata a Monaco di Baviera i primi di gennaio di quello stesso anno. Era il 5 o il 6, non ricordo bene. Volevo imparare il tedesco, cosa che ho fatto. Dopo aver frequentato il corso di tedesco, avevo anche dato l'esame conclusivo, quello che rappresentava l'unica possibilità per gli stranieri di iscriversi ai corsi universitari. E incredibilmente ero riuscita a passare anche quel difficile esame. Parte scritta, orale, comprensione di un testo letto da un docente, un libro da leggere e su cui preparare una relazione. Insomma, un esame decisamente tosto. Ce l'avevo fatta però. Non solo, a fine esame alcuni degli esaminatori si erano anche complimentati con me, ma ovviamente la mia vita non era solo ed unicamente studio. Ero giovane, ingenua, entusiasta di un mondo cosmopolita e spumeggiante. Dopo qualche tempo mi sono innamorata di uno studente, anche lui straniero, per la precisione medio orientale. Nel giro di pochi mesi ero incinta. Non so se si dice anche nel resto dell'Italia, ma qui esiste l'espressione vista e presa. Io avevo fatto il liceo, poi ero un po' incerta, avevo lavorato d'estate in un campeggio di tedeschi e quindi ero andata in Germania per perfezionare il tedesco, ero andata a Monaco e infatti l'avevo imparato perché così ero anche abbastanza brava e avevo conosciuto questo ragazzo e poi la storia diciamo è andata un pochino da sola, ci ha un po' preso la mano, ecco. I primi mesi della mia gravidanza trascorsero come in una favola. Giocavamo agli sposini, lui mi voleva bene, io ne volevo a lui, e i nostri genitori non sapevano niente. Fino a che il suo babbo, un colonnello medico, non venne a conoscenza del fatto che suo figlio stava per avere un bambino. Prese un aereo, arrivò a Monaco, acchiappò suo figlio e se lo portò via. Lo stesso fece poi anche mio padre, solo che non arrivò in aereo, in macchina. Ma insomma, la solfa era la stessa. Erano gli ultimi giorni di settembre. Il bambino o la bambina, non sapevo ancora se fosse maschio o femmina, sarebbe dovuto nascere verso la metà di ottobre. Mi ricordo che trascorsi quei giorni come in un sogno. Avevo una pancia enorme e mi guardavo intorno senza avere in realtà coscienza di cosa mi stesse accadendo. In più, quasi come se avesse capito tutto e volesse farmi un dispetto, sto bambino proprio non voleva saperne di nascere. I giorni passavano e niente, non accadeva nulla. Il ginecologo che mi aveva in cura mi faceva continui controlli. I risultati erano sempre quelli. Era tutto a posto. Ma poi non succedeva nulla. Per cui prese una decisione. Il 3 novembre, quasi 20 giorni dopo lo scadere del termine, decise di ricoverarmi per programmare un parto pilotato. Rimaneva solo ed unicamente un dubbio da sciogliere. Cos'è un parto pilotato? Boh, io non avevo la più pallida idea. In tutto questo lo lasciavo fare. Dal limbo in cui mi trovavo era il mio babbo che pensava tutto. Dopo la paura di avermi persa in Germania e il colpo di avermi ritrovato incinta, lui, che era sempre stato accanto a me, non mi lasciava mai. Ricordo che mi accompagnava a fare delle lunghe passeggiate fino al mare, lungo la pineta. Sia perché l'aveva consigliato il medico, sia perché ci teneva a farmi uscire di casa. Io, infatti, visto che mi vergognavo e non volevo farmi vedere da nessuno dei miei coetanei, mi ero rinchiusa in casa. Ora sono tutte mamme single, tutte vanno fiere, eccetera, eccetera, e sono moderne. Allora, ripeto, si parla di 25 anni fa, erano altri tempi. E lì babbo, poverino, non sapeva che fare, siccome questa bimba poi non nasceva, perché poi c'era questo aspetto che non nasceva, è nata tanto tempo dopo, mi portava a fare queste lunghe passeggiate sul mare. La sera del 3 novembre, sempre accompagnata dal mio babbo, entro in ospedale e ci passo la notte. Mi ricordo che ero spaurita, non sapevo cosa sarebbe successo il giorno dopo. Durante la notte, sarà stato per la tensione, dormo poco e male. La mattina dopo passa indenne fino all'orario del pasto. Mio padre, come sempre, era venuto a trovarmi per informarsi sulla situazione. Io mi sentivo un po' strana. Lo dissi all'ostetrica, che mi visitò. Secondo lei, a parte qualche doloretto, non si può dire che si sia avviato il parto, mi disse. Cammina lungo il corridoio, così vediamo se si muove qualcosa. Poi sparì, dietro a un'altra sposina che aveva le doglie. Con il mio babbo a fianco camminavo lungo quel corridoio, mi sentivo male, vomitai 3 volte. Ogni tanto, dal dolore al ventre, mi si piegavano le gambe. Ma poi, come d'incanto, il dolore spariva. E il mio babbo a dire... Esagerata, l'hai sentita l'ostetrica, per ora non c'è niente. Dai, camminiamo ancora un po'. La sera, dopo un pomeriggio passato a camminare lungo il corridoio, l'ostetrica mi visitò. Mi guardò negli occhi e mi disse: brava, hai fatto tutto il travaglio zitta zitta da sola. Corri, va, vieni in sala parto. Feci giusto in tempo a salire su una grossa poltrona. 2 spinte, un urlo ed era nata benedetta. Ricordo che stanchissima dissi: oh, è tutto finito. Il ginecologo mi guardò e mi rispose: no, questo è solo l'inizio. Ve lo dicevo prima, no? Che il racconto di Cristina non è l'unico che ci è arrivato e che riguarda il parto. E la cosa che più mi piace quando li leggo è che ovviamente ogni nascita viene vissuta e quindi viene raccontata in modo diverso. Io ho due carissimi amici, si chiamano Agnese e Gabriele. Loro pochi anni fa hanno deciso di andare via da soli, fare una di quelle cose che tutti dicono ma non fanno mai. Hanno preso, hanno mollato la città e sono andati a Samone, che è una frazione del comune di Guiglia, nell'Appennino Modenese. Si sono fatti l'orto, hanno le galline, hanno dei gatti e Gisella, il cane più buono del mondo. Dopo qualche tempo che erano là, Agnese è rimasta incinta e ha deciso, appoggiata da Gabriele, di partorire in casa. Poi tutti e due hanno raccontato la stessa cosa, la stessa storia, l'hanno fatto per iscritto. Quella di Agnese è in forma di lettera, come se l'avesse spedita a sua figlia Esther, che oggi ha 3 anni. Ecco, io le ho chiesto il permesso e adesso vorrei leggervene qualche piccolo passaggio. Cara Esther, fin dai primi giorni, dopo averti partorita, ho pensato a come sarebbe stato bello poterti raccontare tra qualche anno, magari la sera prima di addormentarsi, il racconto del tuo parto. E non solo perché credo che per chiunque possa essere qualcosa di bello sapere come si è nati, ma anche perché più passa il tempo e più il ricordo di quella notte per me è dolce e stupefacente, e quindi è una storia perfetta per addormentarsi. Vedi, io ho sempre saputo che saresti nata a casa, nella casa tra i monti che trovai dopo tante ricerche, in una valletta tranquilla con tanto verde. Era il 9 di gennaio. Quella giornata trascorse come una giornata tranquilla, nel senso che ho continuato a fare le solite cose in casa, controllare le stufe, dare da mangiare agli animali, leggere e fare da mangiare per noi. Dopo pranzo ho fatto una passeggiata approfittando del sole e nel frattempo erano cominciati dei dolori alla pancia che per me erano identici a quelli delle mestruazioni. Erano proprio le prime, e non osavo nemmeno chiamarle, contrazioni. Mi feci una doccia. Uscita dal bagno ricordo che le contrazioni aumentarono di intensità, ma non al punto da non permettermi, ad esempio, di guardare un film, di riuscire a seguirne la trama, di aiutare Gabriele per la cena e persino mangiare. Dopo cena però faticavo a stare seduta e avvertii il bisogno di salire in camera e accomodarmi con svariati cuscini sul letto. Verso le 22 non ero più capace di ragionare lucidamente. Ricordo che tuo padre continuava a chiedermi se avremmo dovuto chiamare le donne, Chiara e Clara, che erano le due ragazze conosciute al corso preparto e che avevano deciso di accompagnarmi nel mio parto. Ma ti giuro, per me era una decisione estremamente difficile, non tanto perché non sapessi cosa fare, ma perché era davvero dura concentrarsi su qualsiasi altra cosa che non fosse la mia condizione fisica. Comunque Clara e Chiara arrivarono, io ero ancora sul letto. Siamo state un po' lì in camera, con la porta aperta, poi però siamo andati in bagno, come avevo previsto. Da qui in poi ho soltanto ricordi abbastanza vaghi, nulla di orari o fasi o spostamenti, se non quello che mi è stato riferito dopo. Ricordo però di aver risposto male un paio di volte a Gabriele, che ogni tanto entrava, forse esausto dal sentirsi e dal doversi tenere occupato fuori dal bagno nel seguire l'andamento delle stufe, nello scrivere ciò che succedeva e nel rassicurare Gisella, il cane. E dirle che tutto andava bene malgrado mi sentisse urlare sempre più forte. Non era stato deciso categoricamente che lui rimanesse fuori dal bagno, ma alla fine è andata così e ne sono contenta. È stato il mio primo parto, ma anche il suo, ed era emozionato. Sapeva tante cose su quello che sarebbe potuto succedere, ma comunque è un uomo e ho preferito avere delle donne a sorreggermi quella notte. La sua presenza sarebbe diventata fondamentale da allora in poi. Del resto del travaglio ho alcune immagini chiare, altre meno. Ricordo certe frasi o parole, ma fino a quando non ho iniziato a spingere, tutto rimane nella mia memoria sotto le spoglie di un sogno. So solo che è stato come mi immaginavo. Ho avuto proprio il parto che volevo. E per questo ti ringrazio. Agnese. Beh, quello quello di Stefano riguardo al suo parto è un ricordo, diciamo, non particolarmente carino. Mio padre mi ricorda sempre quanto gli è costato il cesareo in clinica. Ciao, io sono nato a Milano il 13 dicembre del 69, il giorno dopo la strage di Piazza Fontana. I miei mi hanno sempre raccontato che mia madre ha sentito il botto e si è spaventata. Per quello sono nato quel giorno lì. E poi ancora, a proposito di bambini nati un po' storti, avevo i peli sulle orecchie, il viso tutto rosso per il cordone ombelicale intorno al collo. Fu così che mia zia disse a mia madre: che brutta figlia che hai fatto. PS, ora mi sono sistemata. Ciao Sara da Erve. O un errore. Esiste un posto che si chiama Erve? O Erve, forse? No, è scritto proprio Erve. 349-238-6666, ricordo del vostro parto. Siamo partiti però da un racconto che ci ha mandato Cristiana, che riguarda il suo primo parto. Era giovanissima, aveva 21 anni e partorì la sua prima figlia. Pronto, Cristiana? Pronto, mi senti? Io ti sento, tu mi senti? Sì, abbastanza. Sono un po' emozionata. A chi lo dici? Come stai? Bene, grazie. Senti, ma sei a casa a Ribolla in questo momento? Sono a Ribolla. Ora, in questo momento sono venuta in ufficio perché a casa sono in campagna e non prende bene il telefonino. Che lavoro fai? Lavori in ospedale, giusto, mi dicevi, Cristiana? Ma no, non proprio in ospedale. Lavoro in un distretto sanitario. Siamo solo due infermiere. È come un distaccamento, diciamo così. Ma quindi... Un avamposto. Ma è una cosa... Fate lavori d'ufficio o siete proprio... Noi abbiamo sia la parte ambulatoriale, e dove abbiamo le vaccinazioni, abbiamo vari specialisti, prelievi, e poi abbiamo la parte forse più importante, tutto il territorio. Cioè abbiamo una macchina, andiamo a domicilio da vari pazienti, terminali. Sì, fate, insomma, mi è piaciuto il termine avamposto. Tu sei di Cecina, sì, però. Sì, guarda, te l'assicuro. Lo immagino, sei di Cecina proprio. Sì. Mi sono trasferita qua in Maremma 20 anni fa. E tutto, perlomeno tutto, quantomeno tutto quello che racconti nella tua storia accade là, quindi a Cecina, sì. 24 anni fa, direi, giusto? Perché sì, hai detto che Nell'87. Sarebbe 25. Senti, innanzitutto volevo rassicurarti sul fatto che vista e presa è una roba che si dice dappertutto. Non solo, perlomeno si dice anche al mio paese. Ecco, ma credo che addirittura sia una formula commerciale, se non sbaglio. Sì? Cioè che quando vai in un negozio e vedi una roba, visto e comprato, visto e preso. Vabbè, ma chi se ne frega. Senti, una cosa che volevo chiederti però, con il permesso e con il tatto possibile. Hai mai più sentito o avuto notizie del ragazzo medio orientale, no, babbo? Non l'ho mai più visto e mai più sentito. No. E tua figlia, che oggi ha 24 anni e si chiama... Lei, ascolta, io ho lasciato per lei una foto e ho lasciato delle cose che lui aveva scritto, perché secondo me è giusto che da parte sua che sapesse questa cosa. E quindi le ho già mostrate, lei sa queste cose, le ho fatte vedere, sì. E quindi le sa. Poi sarà lei, se un domani vorrà andare a cercarlo, che vuole, è un problema suo. Io di che parte del Medio Oriente era? Dell'Iran. Senti, lei quindi ha dei tratti particolari? Ma il viso sì, cioè io lo vedo, una persona non lo nota, perché no, beh, poi certo, in realtà però... non si nota, però ecco, io lo posso vedere, queste ciglia particolarmente lunghe, e poi c'ha dei gusti particolari, dei gusti proprio del mangiare. Per esempio lei adora questi, cioè faccio per dire, io che sto a Maremma, noi si parla di, che ne so, salsiccia, visto, però certo. Un po' greve, invece lei adora il cumino, la curcuma, il cardamomo, cioè cose che io non ho mai viste, mai nemmeno sentite. Ma non è che magari, come dire, c'è una forma di ricerca anche inconsapevole da parte sua di un'origine, so, e quindi... Io non lo so, ho notato questa cosa che è particolare, lo immagino. Appena ha potuto, perché ha fatto la spesa da sola, via la prima cumino. Cosa si è comprata, il curry, si è comprata cose che io in tutta la mia vita non l'ho mai assaggiata, certo. E non mi importa di assaggiare. Senti, però... Cristiana, invece poi tu però ne hai avuti altri tre di figli. Altre tre femmine. Sì. Sono quattro donne. Quattro femmine, sì. E hai un marito o un compagno, immagino. Una vita è un'avventura, perché dopo la Benedetta mi sono sposata, sì. Ho avuto queste tre bimbe, poi a sua volta mi sono separata e ora c'è un altro compagno. Ah, ok, quindi ce l'hai un uomo al tuo fianco. No, ma che mi sto preoccupando, sì, Cristiana, sì. Ce l'hai uno, immagino che riesci a fare tutto da sola, però no. Ce l'hai un uomo al tuo fianco. Sì, che c'è un maschietto. In quanti siete in sta casa? Sto perdendo il conto, scusami. Siamo tanti, sono quattro loro e poi c'è un altro maschio che ha il compagno, poi abbiamo una canina e un cane. Una gattina. Perfetto, il tutto a Ribolla, che suona come un po'... Ribolla, che è un luogo che è diventato, era famoso perché negli anni 50 ci fu quella strage mineraria. Nel 54 sono morti un sacco di minatori, c'era una miniera. Cristiana, l'ultima cosa, alla fine Benedetta ci ha messo 10 mesi a nascere, tra una roba e un'altra. Perché? Ti spiego, il discorso è tale che poi questo, tutte cose che ho capito dopo, praticamente l'ovulazione quel mese era venuta più tardi, il riferimento che hanno i ginecologi era un conto sbagliato alla mestruazione, loro facevano il conto a quello, invece l'ovulazione era venuta dopo, quindi lei era nata dopo e io ero rimasta incinta perché questa ovulazione era venuta dopo. Chiarissimo. Senti, Cristiana, io ti ringrazio moltissimo, e dovesse accaderti qualcos'altro nella tua vita, visto che sei giovanissima ancora, magari scrivici qualcosa. Diamine. Ok, grazie mille Cristiana, stai bene, buona giornata. Ti ringrazio, ciao. A te e a tutti. Grazie mille. Ciao. Sono convinto di ricordarmi personalmente la camera dove sono nato. Una finestra di fronte, una a sinistra e una persona, una suora vestita di bianco. Ciao. Voi siete qui. E ha ragione Cristiana quando dice che non dimostra i suoi 45 anni. Non li dimostra affatto, nemmeno nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Ha su una sciarpa rosa in pile, un giacchettino è all'aperto e sullo sfondo credo ci sia la Maremma, immagino. È bionda, ha gli occhi verdi e devo dire, ha la faccia un po' perplessa. Ma non saprei dire il perché, sinceramente. Stavo per nascere alle 6 di mattina, mi scrive... non so chi. Mio padre chiama l'infermiera, ma era un falso allarme. Ore 9, stessa scena, falso allarme. Ore 12, stessa scena. Ore 15, stessa scena. Ore 18, mio padre dice a mia madre che era l'ennesimo falso allarme. Non chiama l'infermiera, ovviamente nasco. Sono nato il 22 agosto del 72 a Marostica, in provincia di Vicenza. Mio padre era a Roma, partì in treno per venire a Vicenza. A Bologna mangiò 7 kg di cocomero e il gestore non volle essere pagato. Vanessa scrive: nessuno della mia famiglia si ricorda a che ora sono nata. Mia madre dice la mattina, mio padre dice la notte, mia zia dice l'ora di pranzo, il che un po' mi spaventa. E in più Vanessa ha il problema di non sapere calcolare l'ascendente. Cioè, se è un problema, no? Pietro, non guardarmi anche la faccia. Appena nato, il 6 di luglio, mi misero in braccio a mia madre. Sbatté una finestra. Io girai. Questi sono gli aneddoti che preferisco. Sbatté una finestra. Girai la testa verso quella finestra e mia nonna disse: non è sorda. Letizia. E poi Emilio mi scrive giustamente che si dice non vista e presa, ma si dice vista e piaciuta, credo, da un punto di vista, cioè, commerciale. Ma mi è capitato una volta, avevo preso un divano, era lì presente e mi disse, cioè era, il divano era lì perché era in saldo e mi dissero vale la regola del visto e piaciuto, cioè che poi non ti lamenti dopo se c'è qualcosa che non va. Credo esista proprio una regola. Vabbè, Gianmarco, sono nato il 14 agosto dell'83 alle 21. Appena nato, il medico, con in bocca una Marlboro rossa, disse a mia madre: questo bambino non avrà mai voglia di lavorare. E infatti oggi faccio il giornalista radiofonico. A chi lo dici, Gianmarco? Non sono giornalista, ma... E non ricordo di medici con Marlboro rossa in bocca, però non andiamo tanto lontano. E poi ancora, ecco qui... non è la propria nascita, però la leggo lo stesso. Primo gennaio del 2008 alle 8 del mattino è nata mia figlia Carolina, con la K. Prima bambina nata in Veneto, nata in Veneto orientale addirittura nel 2008, sul Gazzettino di Venezia, sotto la foto di mia moglie con la figlia in braccio era scritta: prima bambina dell'anno in Veneto, parla russo. Bellissimo ricordo. Slava da San Donà di Piave. 349-238-6666. Voglio riuscire a cercare di leggervi però anche un'altra storia, è una mail che mi è arrivata oggi, me l'ha mandata Daniela ed è il ricordo chiaramente della sua nascita, e intorno a questo ricordo c'è tutto un mondo, tutto il mondo di quell'epoca. La notte del 17 novembre di quell'anno lontano, nella campagna veneta, c'era una nebbia che si tagliava con il coltello. Era una casa di campagna, fuori dal centro del paese. L'acqua per la casa si tirava su dal pozzo, e oltre ai nonni e agli zii c'erano solo gli animali e una buona cantina. Quella sera però c'era un gran fermento. Era una sera diversa. Un'aria di aspettative e di desideri aleggiava nella casa patriarcale. Ma non più di tanto. Tanti figli erano già nati in quella casa, ma per mio padre, il più piccolo dei 14 fratelli, era solo il secondo figlio che doveva nascere. E lui aspettava impaziente il mio arrivo, più di mia madre, perché lui aspettava il suo maschio. La prima era già stata una femmina, insopportabile per lui sarebbe stata una seconda. «Gabriele, vai che ora», dissero le zie avvolte negli scialli. «Ci pare che si avvicini il momento, devi andare». Le zie ormai erano pratiche di parto e sapevano quando era necessario chiamare l'esperta di parti, la famosa Clelia. Mio padre non se lo fece dire due volte. Buttandosi addosso una giacchettina, inforcò la bicicletta, l'unico mezzo a disposizione, e pedalando scomparve nella nebbia a chiamare la levatrice. Lui, pur nella difficoltà data dal buio e dalla nebbia, si avviò felice ed emozionato perché pensava che di lì a poco sarebbe nato il suo figlioletto. Ebbene sì, io dovevo nascere maschio, perché era così che lui mi desiderava. Al ritorno, portando la famosa Clelia sul manubrio della bicicletta ed evitando di cadere, si precipitarono entrambi in casa. Lei fu fatta salire al piano di sopra e lui invece trattenuto in cucina dagli uomini che cercavano di calmarlo. Le zie raccontano che mentre c'era quel gran traffico in casa, mio padre tentava di origliare da dietro la porta della camera dove stava la mamma. Voleva sapere, chiedeva, ma loro impazienti sbuffavano dicendo che avevano da fare, che portassero acqua e panni caldi. Lui insistente voleva sapere, ma a quei tempi quella stanza era interdetta agli uomini. La nascita era un avvenimento vissuto esclusivamente al femminile, una cosa di donna, insomma. Le ore passavano mentre l'andiriviene continuava e lui, sempre più nervoso e agitato, chiedeva: «Allora, è maschio? È maschio, vero?» Finalmente, dal gran mio pianto e dalla partecipazione affannata di mia mamma e delle zie, capì che era finalmente nato. Ma nessuno gli diceva niente. D'altra parte, chi aveva il coraggio di dirgli che era nata un'altra femmina? La sua delusione fu grande. Quel batuffolo fasciato come una mummia, perché così si usava, non lo attraeva per niente. Mi si racconta che per 3 mesi non mi prese in braccio. Mi guardava e scuoteva la testa. Non mi dedicava nessuna attenzione. Poi, col passare del tempo, dovette rivisitare i suoi miti e farsene una ragione. Mi raccontò poi che soprattutto non seppe resistere ai miei sorrisi e capitolò fino a capire di volermi veramente bene. Ma la storia inerente alla mia identità sessuale non era finita lì. Born inside the gates of the family, hardened by a Roman machinery, cast among the building sites, the coiling wires, the shots collected, charging down the mall. Questo pezzo magnifico che Bonini ha trovato non so dove, è proprio fresco fresco, mi diceva che è uscito forse ieri, addirittura oggi, si chiama Animal Life, il gruppo invece si chiama Shearwater. Ve lo dico perché spesso mi chiedete quali sono i brani che mandiamo in onda. Li trovate tutti sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, e adesso sul nuovo profilo Twitter del programma, che è Voi Siete Qui, twittiamo anche i brani più importanti della giornata, immagino questo sia stato segnalato. Vi ricordo che però, se andate sul profilo Facebook di questo programma, che è Matteo Caccia Io Sono Qui, trovate anche una sorta di compilation, una pagina di YouTube con tutte le basi che mandiamo, le musiche che mandiamo durante i racconti. Grazie a Federico Bernocchi, Tiziano Bonini, Margherita Ina e a Pietro Lacorte. La storia di oggi era la storia di Cristina, parlava del parto; quella di domani è la storia di Valerio e parla dei dolori del giovane Valerio. E così una sera beviamo un po' più del solito e va a finire che ci baciamo. 2 giorni dopo lei però mi chiarisce che è stato solo un episodio dovuto all'alcol e a un suo momento di fragilità psicologica. Avete presente quando non c'è bisogno di spiegazioni? Beh, questo era uno di quei momenti. Però, intanto, Daniela l'avevo tradita ed ero rimasto scioccato perché non l'avevo mai fatto.